bussola orientata contro un muro di cemento, con le vele già spiegate su di un mare senza vento. Punto gli occhi all'orizzonte, cerco troppo da lontano uno scoglio, un po' di sabbia per posare la mia mano. Non ci credo alle sirene nei canti ammaliatori, voglio solamente uscire e stare finalmente fuori. Respiro lento, l'aria che c'è tra me e te, ora ti sento al centro dei rumori miei, nei rumori miei. Pochi passi da una spiaggia come fossero infiniti, su di un mare che riflette il cielo contro i tuoi vestiti. Provo a immaginare i frutti, vedo quasi anche i colori, sento addirittura addosso il profumo dei suoi odori. E con gli occhi chiusi a forza e la mente che mi ignora, sento il corpo che si scioglie grande e finalmente vola, prende forma, inventa voli, in cielo sale e poi si avvita, si apre il petto per mostrarmi dov'è la sua ferita. Respiro.